Allora sì, ci troviamo qua nel quartiere di Prima Valle, che è un quartiere popolare storico della zona nord di Roma, che è ancora a stragrande maggioranza composto da case popolari dell'Ater, ed è un quartiere che ha anche una lunga storia di lotta per la casa. Quello che è successo è che lo scorso giovedì una manifestazione, una piccola iniziativa emergenziale dell'Unione Inquilini è stata completamente scavalcata dallo spontaneismo degli abitanti delle case popolari, che hanno invaso la strada principale, qua del quartiere, l'hanno bloccata con un blocco stradale, mettendo in mezzo alla casa i cassonetti e bloccando la strada e mettendo in campo un livello di conflittualità spontanea, disorganizzata, però un livello di conflittualità molto più elevato, molto elevato. E si è deciso subito di interagire con questa spontaneità le varie realtà qua del territorio, e si è rilanciato su il corteo che si sta svolgendo in questo momento, un corteo che è composto da sicuramente più di 200 persone in questo momento, ma sta andando a crescere di metro in metro, perché tutto il quartiere è riversato, gran parte del quartiere è riversata in strada, assiste allo svolgimento del corteo, a volte unendosi, spesso unendosi. In alcuni punti il quartiere si fa anche fatica a distinguere cosa sia corteo e cosa non sia corteo, perché si sfila in mezzo a una grande quantità di persone. L'altro dato molto importante è che è un corteo che stanno facendo insieme, in cui si stanno incontrando, in qualche modo anche conoscendo in questo territorio per la prima volta, varie realtà differenti dell'emergenza abitativa, tanto gli assegnatari di case popolari che appunto in base all'articolo 3 stanno a rischio, l'articolo 3 dà il via alla vendita, all'asta, a prezzi di mercato tra l'altro, delle case popolari, che ovviamente qua nessuno si potrebbe permettere di comprare, per quanto poi la nostra contrarietà vada al principio in sé, e questa componente si sta incontrando con tanto gli inquilini occupanti senza titolo delle case popolari, quanto con gli occupanti della lotta per la casa, del coordinamento delle due occupazioni che ci stanno in questo territorio, Battistini e Torre Vecchia. Secondo noi questo è un passaggio fondamentale, cominciare a conoscersi e riconoscersi in piazza, nella lotta, e cominciare a capire di stare tutti sulla stessa barca, che la lotta deve essere una unica. In questo senso questo è un passaggio importante che avviene su questo territorio, a cui cercheremo di dare un seguito organizzativo il più ampio possibile. Senti, che percorso ha il corteo questa mattina? Dove andrà a finire? Allora, salvo deviazioni, in questo momento siamo partiti da Piazza Mario Salvi a Prima Valle, e dovremo andare a finire a Largo Arturo Donaggio su Via Torre Vecchia. Sicuramente il corteo ha tutta l'intenzione di porre un problema direttamente alle istituzioni più vicine, quelle del territorio, non tanto andando a chiedere qualcosa, ma l'intenzione è quella di andare a imporre una presa di parola, almeno iniziale, su questo problema. E quello che si vuole rendere chiaro è che in un quartiere con una così alta densità di case popolari non sarà gratis per loro, devono capire da subito, non si possono permettere di fare queste manovre senza aspettarsi in cambio un'altissima conflittualità sociale, di cui oggi appunto il solo fatto di riconoscersi è il primo passo.